dammi un pezzo del mio tempo, lo puoi condividere. Vado a misurarmi un po' con me, mi aiuti a non mollare mai, se ogni volta arrivo e trovo te, con i miei stessi colori. Non c'è vento, sole, pioggia e un pomeriggio inutile, ci mettiamo in gioco quando vuoi. Senza invidia andiamo, corri e fatti prendere, conta i passi miei e lasciami pregare, corri e fatti prendere. Sulla strada c'è un silenzio che non so descrivere, il mio corpo assorto scivola, respiro e vivo un po' di più, apri gli occhi e vedi un altro me, se mi vuoi. Senti